in primo piano. Buongiorno da Gianfranco Fabi, eccoci qua anche oggi per la lettura, come tutta la settimana, dei giornali, per guardare all'interno delle notizie, per cercare qualche spunto di riflessione su quello che succede nel mondo. E oggi sono essenzialmente due i grandi temi, come dei giorni scorsi, che si susseguono sulle prime pagine dei giornali. Da una parte la politica economica, quello che dovrebbe fare il governo, e soprattutto la polemica sulle nuove misure che sono in vista per le pensioni, dall'altra i temi di politica internazionale, in particolare la crisi in Iraq, il fatto che gli jihadisti abbiano decapitato un reporter USA, una palese minaccia ulteriore di un conflitto che sembra estendersi. Oggi peraltro c'è la missione del premier Renzi in Iraq. Ecco, il grido degli jihadisti in fuga dall'orrore è il titolo principale di Avvenire, che ha un reportage con le testimonianze dai campi profughi di Ben Kandahar, dove si ammassano le vittime della violenza jihadista. Oggi ricorda Avvenire la missione Lampo di Renzi a Baghdad. Sul fronte della cronaca c'è ovviamente su tutti i quotidiani la notizia dello scontro in volo tra i Tornado. Si cercano ancora i quattro militari, come avete sentito anche dal giornale radio poco fa, e le fotografie di questa drammatica vicenda, appunto, avvenuta nelle Marche, con lo scontro tra due Tornado, è praticamente su tutti i giornali. La Stampa apre tuttavia con Renzi: nessun progetto sulle pensioni, rilancia la riforma su scuola e giustizia, oggi visita Lampo del premier in Iraq. Anche il Corriere della Sera, dopo la notizia del Tornado, la notizia della decapitazione del reporter USA e del fallimento della tregua tra Gaza e Israele, razzi su Tel Aviv e Gerusalemme, raid di Israele, pronte le truppe, Hamas rompe la tregua, colpite una bimba e una donna palestinese. Repubblica apre invece sulle pensioni d'oro, Renzi boccia Poletti, scontro nel governo, Baretta: non si tocca chi prende meno di 2.000 euro, immigrati, schiaffo della UE, mancano i soldi, ci pensi Roma. Questa è Repubblica, che ha un'inchiesta: noi medici a mani nude per fermare l'incubo Ebola, e una intervista a Cacciari sulla fragilità di un pontefice che si appella all'ONU. Il Giorno: battaglia sulle pensioni, nel mirino gli assegni più alti, i sindacati avvertono il governo, giù le mani Renzi, nessun piano segreto, ora penso a riformare la giustizia. Messaggero, una nuova notizia, un nuovo fronte che sembra che si possa aprire sulle decisioni di politica economica del governo. Statali verso un nuovo blocco degli stipendi per 2 anni. Il governo pensa di congelare le buste paga per risparmiare 4-5 miliardi. Pensioni, niente IRPEF sotto 8.000 euro. Quindi sono due misure di cui si parla solo sul Messaggero: il blocco degli stipendi degli statali e la riduzione della peraltro poca IRPEF che pagano i pensionati che sono sotto gli 8.000 euro all'anno. Quindi due misure questa volta che vanno al di fuori della solita polemica sul taglio alle pensioni. Il Sole 24 Ore: pronti 52 miliardi per piccole e medie imprese, le prime 10 banche italiane hanno prenotato la provvista presso la Banca Centrale Europea da girare alle piccole imprese, con gli istituti locali la somma sale a 75 miliardi, e questa è in fondo una buona notizia sulla possibilità di riavviare la crescita economica, di dare un po' di ossigeno alle imprese. Sul Sole 24 Ore vi ricordo anche la guida pratica per la famiglia, con un focus sulle università. Si ricorda che un figlio può costare da 500 a 2.000 euro all'anno, e appunto come abbattere questi costi, come ridurre, come sfruttare le possibilità offerte dai vari interventi, come le borse di studio, gli aiuti pratici, sono appunto esaminati dalla guida pratica della famiglia, che questa oggi è dedicata all'università. Un'altra inchiesta del Sole 24 Ore è il viaggio che si sta compiendo tra le aziende italiane, manifattura al bivio. Oggi è il giorno dell'occhialeria, un settore molto importante soprattutto per distretti come quello di Belluno, dove ci sono 282 aziende che generano l'80% del valore dell'export nazionale del settore, che è cresciuto nei primi 3 mesi del 2014 del 12,7%. Ecco, questa inchiesta si intreccia peraltro con un'altra notizia che il Sole 24 Ore e anche altri giornali danno in prima pagina: Luxottica fuori guerra. Andrea Guerra era stato amministratore delegato di Luxottica per negli ultimi 10 anni e questa uscita improvvisa fa discutere. Non si sa ancora bene quali siano le vere ragioni di questa uscita in un'azienda peraltro che continua ad andare positivamente, come dimostrano anche i dati del settore e come dicono appunto gli stessi dati della stessa azienda, che è una public company, anche se controllata dalla famiglia Del Vecchio, quindi un'azienda internazionale, una delle, diciamo, delle poche multinazionali italiane. Luxottica fuori guerra, il titolo del Sole 24 Ore, The Hand, è il commento di Alessandro Praterotti, sempre sul Sole 24 Ore. Ma andiamo a vedere un po' da vicino i temi legati alla politica economica e alle pensioni d'oro. Renzi boccia Poletti, scontro nel governo, è il titolo, vi dicevo, di Repubblica che sintetizza in questo modo la giornata politica. Governo diviso sulle pensioni, il presidente del Consiglio Matteo Renzi boccia il progetto, sostenuto dal ministro del lavoro Giuliano Poletti, di un contributo di solidarietà sulle pensioni medio-alte calcolate con il metodo retributivo. I giornali d'agosto, attuitato il premier dalle vacanze, sono pieni di progetti segreti del governo, talmente segreti che non lo conosce nemmeno il governo, non esiste, ma de che? Fatto sta, questo è il tweet di Renzi, fatto sta che a parlare di contributo di solidarietà era stato in un'intervista proprio il ministro del lavoro e che i tecnici dell'INPS hanno elaborato alcune simulazioni per ricalcolare con il metodo contributivo l'importo dell'assegno pensionistico ricevuto in base alle medie delle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro. Obiettivo: recuperare risorse a favore dei nuovi possibili esodati e dei cassa integrati in deroga. Certo, quello delle pensioni è un tema molto rischioso sul piano politico e sociale. Ieri praticamente tutto il Partito Democratico, da Cesare Damiano a Stefano Fassina, si è schierato contro il prelievo sulle pensioni, che peraltro già esiste su quelle superiori ai 90.000 euro all'anno. E all'attacco oltre a Forza Italia sono andati i sindacati, denunciando la confusione del governo. La CGIL ha parlato di ipotesi inaccettabile a proposito di interventi sulle pensioni retributive. Il leader della CISL Buonanni ha definito solo una nuova tassa l'eventuale contributo e per la VIR si tratta ancora una volta di mera operazione di cassa. Il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta ha detto che per ora non è stata presa alcuna decisione, che si è aperta una discussione, ma anche che chi guadagna fino a 2.000 euro netti di pensione al mese può stare assolutamente tranquillo, quasi a indicare una soglia sopra la quale un intervento non può essere escluso. D'altra parte, è stato lo stesso ministro Poletti a sostenere che per ottenere un gettito non marginale, si parla di almeno 1 miliardo di euro, si deve agire sull'asticella dei redditi. La partita, quindi, scrive Repubblica, è aperta. Una interessante analisi, tra le altre, della sul fronte delle pensioni è nel Corriere della Sera di Alberto Brambilla, docente dell'Università Cattolica di Milano, coordinatore del comitato sugli itinerari previdenziali. Vi leggo le prime battute di Alberto Brambilla. Ci risiamo con il contributo di solidarietà sulle pensioni, solo che essendo in tempo di crisi siamo passati da quelle d'oro, sui quali è in corso un prelievo, come spiega il grafico che è in questa pagina, hanno meglio identificate pensioni alte, essendo poi in clima di giochi europei si è evocata l'asticella. E quindi continua Alberto Brambilla sul Corriere della Sera. E così, nonostante tale contributo sia stato dichiarato anticostituzionale per la terza volta, ci si ritenta. Nel contempo la povera INPS ha prima mandato qualche centinaia di migliaia di lettere in cui comunicava ai pensionati, allora d'oro, che avrebbe applicato un prelievo di solidarietà, in pratica una tassa non prevista dagli schemi pensionistici vigenti, per ramazzare qualche euro. Poi altrettante lettere per dire che avrebbe restituito il maltolto. Subito dopo altrettante lettere per dire che ne avrebbe applicato uno nuovo. Per il momento, sostiene Brambilla, a guadagnare sono state solo le Poste. Su questo tema occorre buon senso e conoscenza della materia, per gran parte di coloro che oggi avanzano proposte non sembrano padroneggiare appieno. Demagogia, perché affrontare lo spinoso tema di chi non versa contributi e delle troppe pensioni a carico dello Stato è impopolare, mentre prelevare a chi ha crea molti consensi. Questa è l'inizio di un interessante articolo appunto di Alberto Brambilla, che in fondo dall'inizio dimostra come l'approccio che ci è stato dato appunto a questo tema sia stato un approccio, diciamo così, un po' dilettantesco, un approccio che peraltro emerge anche da alcune dichiarazioni che vengono riportate da Repubblica. Renzi, proposta già bocciata, ma l'idea prima gli piaceva. Poletti tira dritto, cerca fondi per esodati e cassa integrati. E c'è una dichiarazione di Renzi in cui si dice: uno che prende 7.000 euro al mese, se ne prende 6.500 campa lo stesso, chi ne prende 600, se da 200 in più sta meglio. Cosa del tutto vero, però il problema è che non è che i 6.500 o le 7.000 siano un'elargizione del governo, un'elargizione dello Stato, ma è qualcosa che nasce da una contribuzione che magari per 40 anni le persone hanno portato avanti appunto per poi garantirsi una pensione. E questo è legato un po' al patto, al contratto che c'è tra lo Stato e i cittadini, a mantenere in fondo le promesse. E quindi nella fiducia delle istituzioni che dovrebbe esserci, e che dovrebbe sostenere il rapporto tra Stato e cittadino. Proprio di fiducia delle istituzioni parla Michele Ainis nel suo editoriale del Corriere della Sera, un sentimento impalpabile. Ti guardi attorno e incontri facce rattristate, umore torvi, occhi disillusi. Il futuro non è più quello di una volta, diceva Valéry, specialmente qui in Italia. Una ricerca dell'istituto tedesco IW, appena diffusa, mostra come in Europa la povertà reale sia di gran lunga minore rispetto a quella percepita. E gli italiani, al 73%, si percepiscono poverissimi, molto più degli altri popoli europei. Ancora Michele Ainis sul Corriere della Sera. Perché sono poveri di speranza, di ottimismo, di fiducia. Ecco, la fiducia, quel sentimento volubile e impalpabile come volo di farfalla che nutre l'economia non meno della politica, non meno delle istituzioni. Se pensi che il peggio arriverà domani, non spenderà un centesimo dei tuoi pochi risparmi, neanche gli 80 euro che ti ha messo in tasca il governo, e il crollo dei consumi farà inabissare il sistema produttivo. Se vedi tutto nero, qualsiasi inquilino di Palazzo Chigi indosserà ai tuoi occhi una camicia nera, meglio combatterlo, con le buone o con le cattive. Ecco, c'è un farmaco, si chiede Michele Ainis, contro questa malattia. A suo tempo Berlusconi dispensò sorrisi e buoni auspici, raccontò di ristoranti pieni e di aerei con i posti in piedi, promise di soffiare in cielo per scoffiare via le nuvole. Renzi rischia di ripetere l'errore, se alle sue tante promesse non seguiranno presto i fatti. E concludendo, proprio Michele Ainis si riferisce alle pensioni. Adesso a quanto pare tocca alle pensioni, come se non fossero bastati gli esodati, gente mandata in pensione senza pensione dallo Stato. Un'altra truffa, e 3 anni dopo non sappiamo nemmeno quanti siano. Speriamo almeno che l'esecutivo sappia di una sentenza costituzionale, la numero 116 del 2013, che ha già bocciato il prelievo introdotto dal governo Berlusconi perché colpiva i pensionati lasciando intenni le altre categorie di cittadini. L'ennesimo colpo alla fiducia collettiva, come le bugie di Stato, come le rapine fiscali, come le leggi ingannevoli che parlano ostrogoto per non farsi capire neanche dai parlamentari che le votano. Eppure è la fiducia, è l'affidamento nella lealtà delle istituzioni che dà benzina alla democrazia. Non a caso il termine conta 485 ricorrenze nella decisione della Consulta, il secondo 500, mentre il diritto civile tutela l'aspettativa circa la soddisfazione dei propri legittimi interessi. E in effetti, conclude Michele Ainis sul Corriere della Sera, in effetti un'aspettativa ce l'avremmo per ritrovare qualche grammo di fiducia. Ci aspettiamo dal governo, qualunque sia il governo, il linguaggio della verità, non le favole che si raccontano ai bambini, e ci aspettiamo che ogni sua decisione sia leale affinché sia anche legale. Era Michele Ainis con estrema chiarezza per mettere in luce appunto come il dato della fiducia e delle garanzie che i cittadini possono avere dallo Stato è fondamentale per la crescita sociale e anche per la crescita economica. Sul tema delle pensioni e anche l'editoriale di Walter Passerini sulla Stampa che titola Renzi nessun progetto sul le pensioni, e dice Passerini ha sbagliato l'assalto alla previdenza, puntuale come una sagra paesana ogni fine agosto si celebra il tormentone delle pensioni fatto apposta per demotivare il ritorno al lavoro e il rientro delle vacanze. Le sembianze quest'anno vanno sotto il nome di prelievo di solidarietà su cui si cimentano ministri, politici, contabili, liberisti, sovietologici e alchimisti vari. Alla insostenibile leggerezza degli assegni, il porto medio di 11.000 euro l'anno, si accompagna l'insopportabile leggerezza pizza di cattoni e censori che si divertono a gettare alcol sul fuoco, aumentando l'incertezza degli italiani e il loro umore cupo. Sulle pensioni, dice Passerini, non si scherza. Simboleggiano e sostanziano non solo la capacità di avere un reddito, ma anche il patto di coesione sociale su cui si fondano la comunità, il patto di fiducia sui diritti acquisiti e sul futuro. Non può essere unicamente economico e contabile, quindi il parametro su cui impostare la riapertura del cantiere pensioni ad alcune condizioni. La prima è che non si può fare cassa con le previdenze. Le pensioni non sono né un bancomat né una slot machine. Gli eventuali risparmi sulla spesa previdenziale devono restare nel sistema previdenziale stesso. La seconda è che non sono un campo di battaglia in cui consumare vendette. Le strutture ci sono, le ingiustizie pure. Vedi gli vitalizi di politici e parlamentari. E Robin Hood non è più in attività. Il rischio è illudere le masse che, togliendo i super rischi, possono goderne. E i poveri, i paperoni che guadagnano più di 20.000 euro lordi al mese sono 540, mentre sopra 3.000 lordi al mese ci sono 505.000 pensionati che valgono 38 miliardi l'anno. Poca cosa se li si vuole tassare al 10% con un prelievo di solidarietà. Il paniere si restringerebbe ulteriormente alzando l'asticella a più di 5.000 euro che riguarda 140.000 individui il cui sacrificio sarebbe ancora più inconsistente. I rimedi, sinora proposti, avrebbero un significato più simbolico che concreto. Nessuno ha una ricetta convincente, anche perché per accontentare i contabili si abbassa l'asticella e l'alta tensione diventa micidiale. Ma, conclude Passerini, la questione previdenziale va legata alla questione del lavoro. Non si risolve trattenendo al lavoro più a lungo le persone, ma aumentando le entrate di nuovi lavoratori e nuova linfa contributiva. È solo la creazione di nuovo lavoro che garantisce la sostenibilità del sistema pensionistico nel futuro. Walter Passerini sulla Stampa, con estrema chiarezza, per, diciamo così, bocciare le ipotesi del governo di intervenire sulle pensioni e invece di attuare delle vere politiche attive sul lavoro. Ci fermiamo un attimo, a tra poco. In primo piano. Eccoci di nuovo con la lettura dei giornali. Abbiamo un ospite, Roberto Snaidero. Buongiorno Snaidero. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Roberto Snaidero è presidente di Federlegno Arredo, una delle maggiori organizzazioni imprenditoriali di Confindustria, del settore del legno, dell'arredamento, dei mobili. Ecco, abbiamo parlato a lungo della prima parte dei progetti del governo, degli interventi sulle pensioni, della necessità soprattutto di trovare il modo per rilanciare questa economia. Come sta andando l'economia, come stanno andando le imprese, come sta andando il suo settore, Roberto Snaidero? Ma guardi, c'è stato i primi sei mesi che avevamo avuto una crescita dovuto anche sul mercato interno, dovuto anche a quello che può essere il bonus mobili, che ha dato un grosso aiuto, una speranza di positività. E infatti diciamo che c'era un più 0,6% di aumento nel suo mercato interno. Rispetto a quello però che abbiamo perso in passati, chiaramente è un niente. Però buongiorno. Pronto, si dimica. Quindi dicevo, sul mercato interno le cose stanno andando abbastanza bene, soprattutto bene in riferimento a quanto avviene sul resto dell'economia. Sì, esattamente, però rispetto a quello che abbiamo perso negli anni passati è un niente. Sul mercato estero siamo sempre in crescita. Quello che mi preoccupa molto in questo momento però c'è questo aspetto di questa situazione in Russia, e quindi l'ultima di stamattina, se mi pare, stop ai farmaci ed auto. Anche questo è un altro aspetto, è stato minacciato uno stop di... Pronto? Sì, mi sento. Sento, c'è una voce profondo. Non da parte nostra, ci dica pure, lo sentiamo molto bene. Dicevo, sulla Russia c'è qualche problema, ci sono appunto una moratoria, un embargo da parte europeo che per ora ha avuto delle reazioni da parte russa, con il blocco delle importazioni, soprattutto di alimentari. Rischia di colpire anche i mobili? No, sui mobili ancora no, però è una conseguenza, sarà una conseguenza probabilmente in generale. Siamo ancora in positivo per quanto riguarda le esportazioni. Però noi stiamo investendo molto per quanto riguarda su altri mercati, gli Stati Uniti per esempio. Adesso in settembre sarò in Cina, dove firmeremo una joint venture per un evento fieristico a Shanghai in Cina con le aziende italiane, quindi stiamo investendo molto. Quindi tutta questa situazione mi crea un grande affanno, senz'altro, però io credo che con il nostro Made in Italy, sì, con il nostro sì, il nostro Benedetti possa confermare in fondo quello che ha sempre avuto. Anche alcuni dati sul commercio estero degli ultimi giorni sembrano positivi, sembrano dare appunto spazio alla possibilità di crescere, soprattutto su mercati come diceva gli Stati Uniti e la Cina, che sono mercati che continuano a crescere al contrario dell'Europa. Ecco, voi come Federlegno state anche organizzando alcune iniziative, siete presenti per esempio al meeting di Rimini, con che elementi? Siamo in forza, un grande sforzo che la federazione vuol fare per presentare il nostro settore ai giovani, cos'è il settore legno arredo, perché il legno è una materia viva, una materia che dobbiamo tutti amare. Ma l'altro, c'è un grosso progetto che noi vogliamo portare avanti per i giovani, quindi lanciamo un progetto di inserire nell'ambito del nostro settore 50 giovani che vorranno entrare, dove faremo formazione e poi Forse è caduta la linea, ancora dottor Snyder? No, non si sente più. Eccolo qua, diceva un progetto per i giovani, per fare formazione con 50 giovani che iniziano questo percorso formativo? Sì, percorso formativo, poi entreranno nella nostra struttura, nelle aziende associate Federlegno Arredo. Ecco, quindi ecco un progetto concreto al meeting di Rimini ci sarà una mostra che presenterà tutta la bellezza del regno. Sì, del legno, esattamente, partiremo da un bosco fino al prodotto finito, quindi questo vogliamo rappresentare, quello che è l'eccellenza del Made in Italy. E qui oggi c'è una bellissima lettera fatta dal presidente di Confindustria Ceramica sul Sole 24 Ore, dove parla proprio del Made in Italy. Made in è un oggi che c'è la presidenza europea, credo che sia importante per le aziende italiane che il presidente Renzi porti avanti questo progetto del Made in. No, sento benissimo. Grazie mille, dottor Snyder, presidente di Federlegno Arredo. Appunto, abbiamo parlato di un po' di ottimismo, soprattutto di volontà di affrontare questi problemi, volontà che però deve essere affiancata anche dalla capacità appunto del sistema paese di dare gli strumenti necessari. E su questo ritorniamo alla nostra lettura dei giornali. Ringraziamo appunto Roberto Snyder, presidente di Federlegno Arredo, di essere stato con noi questa mattina e torniamo proprio su Sole 24 Ore, dove l'editoriale di Alberto Quadrio Curzio che sottolinea la necessità di una politica per industria e infrastrutture e la domanda se l'Eurozona si avvia una strisciante depressione e deflazione è emersa chiara, scrive Alberto Quadrio Curzio dopo i brutti dati sul secondo trimestre 2014. Il prodotto interno lordo è stato infatti a crescita zero sul primo trimestre, in crescita solo dello 0,7% su quello corrispondente del 2013, con l'inflazione anno ascesa dello 0,4% in luglio. Tentiamo una risposta con alcune analisi e alcune proposte, e la prima analisi è che manca una vera politica. Le previsioni di una crescita sostenibile dell'Unione Monetaria Europea sono riviste al ribasso, con spiegazioni tra cui quella sulla crisi Russia-Ucraina che cambiano spesso, salvo quella sulla necessità che i paesi tardatari accellino riforme strutturali. Il problema, sottolinea invece Alberto Quadrio Curzio, è che manca una politica economica dell'Unione Europea, che invece ha tacitamente affidato il compito alla BCE, esclusa la politica fiscale restrittiva, sgregandole però un dito alla volta. In queste condizioni la BCE di Mario Draghi ha fatto molto negli anni passati, ma adesso bisogna chiedersi se da sola può rilanciare la crescita di un'area di 335 milioni di persone con 19 milioni di disoccupati, ovvero grandezze maggiori di quelle americane, dove la banca centrale, la Fed, ha poteri illimitati. Su questo tema, sempre su Sole 24 Ore, c'è un articolo di Luigi Zingales, diciamo così un po' provocatorio nelle sue analisi. L'elicottero che Draghi non ha è servirebbe. Di che elicottero si tratta? E nella sua conclusione Luigi Zingales accenna appunto, dopo aver parlato delle differenze tra la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve Americana, dice: Milton Friedman, che di teoria monetaria se ne intendeva, ha sempre sostenuto che una banca centrale può sempre sconfiggere la deflazione, basta che lasci cadere il denaro da un elicottero. Ovviamente si tratta di una di quelle provocazioni di cui Friedman era maestro, nessuno, neppure Milton, pensava pensava di riempire gli elicotteri di banconote e di andarle a spargere al vento, ma è una provocazione efficace per farci capire che i metodi per combattere la deflazione esistono. Basta finanziare la spesa pubblica con moneta. Quello che manca è la volontà politica. Molti saranno inorriditi da questa immagine, scrive Luigi Zingares, ma non è forse per evitare follie di questo tipo che abbiamo creato una banca centrale indipendente? Certo, una banca centrale non indipendente rischia di essere usata da governi senza scrupoli come un bancomat. Questa era la situazione dell'Italia prima del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. A quell'epoca l'inflazione raggiunse il 21% all'anno. Dobbiamo rischiare qualcosa di simile? In mani profane, il curaro è un veleno pericolosissimo. Nelle mani sapienti di un medico è un valido anestetico. La condizione, scrive Luigi Zingales, non è proibirne l'uso, ma disciplinarlo opportunamente. Lo stesso vale per i lanci di moneta dall'elicottero. Sono pericolosi, ma non vanno proibiti, sono disciplinati rigidamente. Purtroppo, però, la BCE è stata disegnata solo con lo scopo di prevenire l'inflazione. Ci si è dimenticati del rischio della deflazione. È simile alla linea Maginot, costruita per proteggere la Francia da attacchi diretti della Germania, ma incapace di fronteggiare possibili attacchi attraverso il Belgio. Ecco, era questa l'analisi di Luigi Zingale sul Sole 24 Ore, sollecitando, come peraltro fanno molti altri giornali, anche degli interventi della Banca Centrale Europea, ben al di là, si chiamano interventi non convenzionali, ben al di là di quelli fatti finora, e che comunque, non va dimenticato, hanno salvato la moneta unica europea negli ultimi anni. Torniamo ai temi internazionali, sottolineando un paio di articoli sul Messaggero. Ennio di Norfo, Europa riscopre la vocazione mediterranea e soprattutto nei confronti appunto della responsabilità e delle possibilità che ha l'Italia di fronte a una crisi così vasta come quella del Medio Oriente, di intervenire, di avere delle, almeno delle ipotesi risolutive. E scrive Ennio di Norfo nella conclusione del suo articolo: il problema diviene quello di considerare ciò che l'Italia vorrà fare nel Medio Oriente. Non è auspicabile che l'atteggiamento riservato e distaccato seguito nei mesi scorsi venga mantenuto, mentre è necessario che l'Italia, senza pretese di primato o volontà di sovrapporsi all'iniziativa altrui, dovrà pure incominciare a far sentire la propria opinione, definendo con precisione i propri interessi. Questi riguardano in particolare la necessità di una ferma lotta contro l'avanzata islamica, perché questo potrebbe, anche per effetto dell'alto numero di immigrati, propagarsi nella penisola. E riguardo alla necessità di vero e duraturo ritorno alla pace, garantito da una ripresa delle buone relazioni con l'Egitto e la Turchia, accompagnato da un accorto strumento dell'occasione offerta dell'avvicinamento all'Occidente di parte dell'Iran, che l'islamismo sunnita ha ora provocato. Ecco, quindi un'attenzione, sottolinea Ennio di Norfo sul Messaggero, a far sì che si possa intervenire in maniera costruttiva, soprattutto per bloccare, per fermare, per condizionare l'avanzata islamica. E sulle persecuzioni islamiste c'è un articolo di Monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara, come editoriale del giornale. Non possiamo dialogare con tutti, afferma Monsignor Negri. È un fatto enorme questo gigantesco esodo di massa di cristiani espulsi dai luoghi dove da millenni era radicata la presenza cristiana, esclusivamente perché cristiani, quindi per quello che la tradizione cattolica chiama l'odio della fede. E questo deve essere detto esplicitamente: non sono soltanto buttati fuori dalle loro case, privati di tutti i loro beni, privati dei loro diritti e quindi delle possibilità di sussistenza, ma la ragione di tutto questo è la fede. E questo, scrive Monsignor Luigi Negri, i cristiani, la Chiesa non possono non sentirlo come un evento terribile e insieme grandioso, perché è l'evento del martirio. E ho ascoltato, scrive ancora Luigi Negri, con molta gratitudine gli interventi di Papa Francesco, così forte, così appassionato e insieme così profondamente compreso di dolore e compassione. Che non con meno gratitudine ho letto la lunga intervista del cardinale Coca all'Osservatore Romano, che ha offerto un momento di dolorosa riflessione su questo evento. Non si capisce perché alcune cose vengono chiamate Shoah e che queste non vengono usate lo stesso termine, che dice che una spaventosa e dissennata ideologia di violenza contro l'altro semplicemente perché ha una posizione religiosa diversa dalla propria. E conclude il suo articolo Monsignor Luigi Negri sulla prima pagina del giornale: ci nascondiamo o rischiamo di nasconderci di fronte a questa terribile minaccia che incombe sull'Occidente e non solo sull'Occidente, facendo un po' quello che hanno fatto le democrazie liberali borghesi nei confronti della terribile vicenda vicenda hitleriana nei tempi immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Non avere il coraggio di questa denuncia è esattamente la misura della debolezza della fede. Il resto finisce per essere solo un vaniloquio. La Chiesa non ha bisogno di vaniloqui, per quanto mi risulta, neanche Dio. E questo era l'appello, diciamo, il drammatico appello di Monsignor Luigi Neri al fatto di intervenire, di prendere posizione soprattutto per costruire anche un dialogo, ma soprattutto per affermare la propria identità e per la logica appunto della speranza. La logica della speranza è quella che sottolinea Giovanni Maria Viani in un articolo sul Sole 24 Ore, dove parla delle parole del Papa contro le nostre dimenticanze e appunto sottolinea come quello, per esempio, che si dice in merito al conflitto in Medio Oriente, che anche l'incontro che c'è stato in Vaticano tra Abu Mazen e Perez sia stato un po' un fallimento, perché poi è ripresa la guerra, ma dopo quanto è arrivato quello, come dice il Papa, quell'incontro non era congiunturale, è un passo fondamentale di atteggiamento umano, la preghiera. Adesso il fumo delle bombe, delle guerre non lascia vedere la porta, ma la porta è rimasta aperta da quel momento, ha detto Papa Francesco, e questo è sottolineato appunto da Giovanni Maria Vian. Alla preghiera si accompagna poi l'azione di chi opera per costruire la pace. Sono moltissime persone in tutto il mondo che offrono solidarietà nei confronti delle vittime, sostegno alla politica e alla democrazia, alla diplomazia, cercano di rafforzare le istituzioni internazionali, le quali, pur con tutti i limiti, restano le uniche a poter decidere quali interventi possono essere dispiegati per fermare le aggressioni e le violenze e spegnere i focolai di questa terza guerra mondiale a pezzi contro la quale il Papa ha levato la voce. Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano, in un articolo sul Sole 24 Ore, per ricordare l'esigenza appunto del dialogo, di opere concrete e soprattutto di dare spazio e forza anche alle organizzazioni internazionali per affrontare i temi degli squilibri, i temi di questa terza guerra mondiale, di fatto, come ha denunciato il Papa al suo ritorno dalla Corea. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. In primo piano. Riprendiamo con la nostra lettura dei giornali. Buongiorno ancora da Gianfranco Fabi, e dopo approfittiamo appunto di questa pausa in cui si è parlato anche delle condizioni del tempo, per sottolineare come anche il tempo sia non solo al centro dei nostri dialoghi quotidiani, ma sia in fondo anche presente. Ieri sono state anche delle notizie anche gravi, e il Secolo XIX da Genova parla di grande paura dal mare, questo è il titolo principale. C'è una foto di una tromba d'aria in avvicinamento dalla costa, una foto scattata dalle alture di Genova, e appunto c'è questo, si parla, il tempo non è più quello di una volta, è cambiato qualcosa, e appunto ci sono un paio di interviste a esperti meteorologi, e una di queste è proprio sul Secolo XIX, parlano appunto delle trombe d'aria e il meteorologo Giugliacci. Ogni estate in Italia se ne verificano almeno 50, quello che è accaduto non è un fenomeno isolato, e commenta Giugliacci. Ogni estate si verificano almeno 40-50 trombe d'aria, ma in un anno così fortemente caratterizzato dal maltempo come questo possono essere molto di più. Il grado di incidenza delle trombe d'aria in Italia non è certo ai livelli americani, ma può essere classificato alto. Le zone più colpite quali sono? Chiede appunto il giornalista Irene Pugliese al meteorologo Giugliacci. Quelle dove l'aria fresca atlantica entra più facilmente, quindi all'uscita della Val d'Aosta, sull'Alto Piemonte, in prossimità dei laghi della Vallata, in Veneto e in Friuli, risponde l'esperto. Lo stesso vale per Liguria, Toscana, Lazio, vittime dell'aria fresca che entra nel Mediterraneo occidentale attraverso il sud della Francia, passando da quelle regioni arriva in Italia. Quindi trombe d'aria ci sono state ieri, particolarmente evidenti e particolarmente forti in Liguria, ma se ne sono state anche in passato, almeno questo ci dicono i meteorologi. Anche sul Giorno c'è un'intervista a un climatologo che spiega che l'anticiclone delle Azzorre non è sparito, ha solo perso la strada, e afferma appunto si è spostato a nord Giumpiero Maracchi, e questo è il climatologo intervistato da Il Giorno. Il colpa dei cambiamenti climatici, colpa dell'aumento della temperatura degli oceani, pensa che per effetto del riscaldamento globale faccia più caldo. Non è così, si spiega appunto il climatologo. Non c'è nulla di più sbagliato. Il surriscaldamento globale comporta un cambiamento della macchina del clima, e uno degli elementi di fondo di questa macchina è la posizione dei grandi centri di azione climatica. Uno di questi è l'anticiclone delle Azzorre durante l'estate, che è diventato sempre meno stabile, appunto che oggi potremmo chiamarlo tranquillamente dell'Islanda invece che delle Azzorre, perché tende a salire sempre più in alto. Sino alla fine di luglio è stato a occidente dell'Inghilterra, ora è sceso un po' più a sud, ma stando molto a nord vuol dire che il clima mediterraneo ce l'hanno gli inglesi, gli olandesi, i polacchi. Dai nostri dati si evidenziano quanto sia modificata la cosiddetta grande circolazione generale, il numero di giorni che l'anticiclone delle Azzorre è diminuito, è circa il 35%. Quindi qualcosa è cambiato, qualcosa di importante sotto il fronte meteorologico globale. Questo cambiamento climatico ha spostato in fondo in alto l'anticiclone delle Azzorre, e questo spiega, anche se in fondo avremmo voluto che non lo spiegasse, avremmo pensato che si potesse anche a tornare ai vecchi tempi di una volta, ma il tempo non è più quello di una volta adesso, e il tempo è cambiato e dobbiamo rassegnarci. Il tempo è cambiato e lo ha dimostrato anche ieri, anche se ci ha messo un po' lo zampino l'inefficienza umana, la celebrazione per i 2000 anni dell'imperatore Augusto, e nel giorno del bimillenario della morte il luogo, appunto il mausoleo di Augusto, è stato allagato non tanto dalla pioggia ma da una rottura di un semplice e vecchio tubo, e su questo si sofferma con un po' di divertimento Luciano Canfora sul Corriere della Sera. Sai perché il sindaco capitolino predilige l'orrendo colosseo del profanatore di Gerusalemme? Sarà per la mancanza di fondi che da anni blocca il restauro del mausoleo di Augusto, ma si potrebbe tentare di estorgere ai pensionati un contributo di solidarietà anche per i monumenti, dice con qualche ironia Luciano Canfora. Sta di fatto che quanto è accaduto a Roma nella solenne ricorrenza del 19 agosto 2014 sembra proprio una beffa. Proprio nel giorno anniversario, anzi bimillenario, la tomba d'Augusto, preclusa da anni al pubblico e finalmente aperta per quell'unico giorno, si allaga e rimane al buio al cospetto di un centinaio di stuisti esterrefatti e forse esilirati. E pensare che il preveggente imperatore, uomo di poche parole ma di molti fatti, aveva provveduto, come scrive Svetonio, ad allargare e ripulire l'alveo del Tevere per frenare le inondazioni. Tale rischio si era aggravato a causa del caos edilizio. Da tempo il fiume era ostruito dei detriti e sempre più imbottigliato per l'estendersi degli edifici. Augusto, scrive Luciano Canfora, operò secondo un piano, non già secondando gli intermittenti scapricci degli amministratori. Aveva trovato una città sempre soggetta a inondazioni e a incendi, scrive ancora Svetonio, e aveva cercato di renderla sicura per quanto umanamente possibile anche per l'avvenire. L'aveva ricevuta di mattoni e la lasciava di marmo. Era questo il suo vanto. Coinvolse i privati, ma in primo luogo mettendo in moto i più danarosi. Incitò i cittadini più in vista a investire i propri quattrini nell'edilizia pubblica. Diversamente dai suoi discendenti postremi, non pensava che per risanare il paese si spremano i meno abbienti. Personalmente si assunse il compito di riattare la famiglia fino a Rimini. Insomma, conosceva l'arte di governare, non quella di vessare, e oggi forse si è proprio divertito. Ecco, questo ricordo dei 2000 anni dell'imperatore Augusto. Tanto tempo è passato, tanta acqua è passata sotto i ponti, soprattutto sotto il Tevere, e indubbiamente le cose, come dire, sono poco cambiate, ma cerchiamo di divertirci un po' e cerchiamo un elzeviro di Giuseppe Culicchia nelle pagine della Stampa. Dialogo vero tra un cliente e un libraio. Il libraio: prego, come posso aiutarla? Il cliente: dovrei regalare un libro a una persona che non legge. Ma ci sono anche clienti che al libraio chiedono: scusi, vada un po' di fretta, dove tenete gli ebook? E altri che dicono, beato lei che sta tutti i giorni in libreria, pensi, io devo andare a lavorare. Insomma, la celebre battuta di John Belushi in Animal House, quando il gioco si fa duro e i due cominciano a giocare, sarebbe il motto ideale per chi voglia intraprendere questo difficile e affascinante mestiere, dato più volte morto per via della concorrenza di negozi online, per tacere della crisi economica e dei temutissimi ebook, che tuttavia si ostinano a sopravvivere. E questo Elzeviro di Giuseppe Colicchia, dedicato appunto ai librai, e dedicato invece a un tema molto più serio, il tema della decrescita, il tema che non è più tanto di moda, perché se ne parlava negli anni scorsi quando la crescita era un po' impetuosa, adesso la decrescita è più dovuta ai fatti che non alla volontà politica, però di favola della decrescita felice ci parla il Foglio Quotidiano in uno dei suoi editoriali. Meno sviluppo fa male all'ambiente, dice uno studio francese, mentre la teoria appunto portata avanti da Serge Latouche, francese, che è un po' un profeta della decrescita, era quella che bisogna fermare un po' la crescita del mondo anche per salvaguardare l'ambiente. Invece uno studio francese dice che meno sviluppo fa male all'ambiente, che dedicato appunto, scrive il Foglio Quotidiano, ai fan della decrescita felice, che felice non è affatto, nemmeno per l'ambiente, anche se l'argomento del meno è meglio, è uno dei cavalli di battaglia dei guru alla Serge Latouche, convinti che la crescita economica sia sempre a spese della salute di aria, acqua e suolo. Il fisico francese Stéphane Sylvestre commenta il secondo trimestre consecutivo di crescita zero dell'economia d'Oltralpe. Un'economia moribonda è davvero più propizia alla salute dell'ambiente? Neanche per sogno, risponde Sylvestre, secondo il quale a compromettere un futuro più verde è proprio, con il suo effetto depressivo sull'economia, l'eccesso di regolamentazioni e di proibizioni che grava sulle industrie europee. Piuttosto che investire nelle vecchie raffinerie europee per modernizzarle, gli estrattori preferiscono investire in Medio Oriente e in Asia, dove le condizioni sono meno onerose. Crescita zero ed economia in affanno significano meno risorse da destinare all'ambiente. In linea di principio, ha spiegato Sylvestre, le politiche ambientali si proiettano sul lungo termine, sono quindi più strutturali che congiunturali. Tuttavia le congiunture obbligano a certe scelte. Così, nel settembre 2012, il primo ministro inglese ha deciso di allentare la politica ambientale del suo governo al fine di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica. Si può anche citare il caso degli Stati Uniti e del Canada, che hanno rifiutato di sottoscrivere il protocollo di Kyoto per non ipotecare le proprie prospettive di ripresa. Ma non si è trattato per loro di rinnegare i loro sforzi ambientali, ed è successo che quel rifiuto non ha impedito un importante calo delle emissioni di gas serra del 15% negli Stati Uniti dal 2008. Non bisogna illudersi, aggiunge Stéphane Sylvestre, che il calo dei consumi energetici legato alla crisi si traduca automaticamente in un vantaggio duraturo per l'ambiente. Al contrario, l'assenza di crescita può comportare sul medio termine maggior inquinamento su scala globale, perché per i paesi in via di sviluppo che bene o male investono sulla modernizzazione delle loro infrastrutture industriali e pubbliche, un marcato rallentamento della crescita può implicare un freno a questi investimenti. La favola della crescita verde e felice è il nuovo avatar delle tesi anticonsumiste emerse negli anni 60 nel contesto della guerra fredda, ma converrà farsi una ragione, conclude il commento del Foglio. I benefici della società attuale, salute, educazione, trasporti e servizi, sono frutto dello sviluppo intensivo nostro e in larga parte di quello degli Stati Uniti. Come dire, anche la crescita può essere utile, deve essere utile per affrontare i temi di fondo, i temi sociali, i temi dell'occupazione, ma anche i temi ambientali, temi che restano appunto in prospettiva i più importanti da affrontare per andare avanti in questa nostra vita quotidiana. E allora concludiamo con un articolo del Messaggero dedicato al pranzo e servito con il gelato come dessert ma sostituto come pasto. Facciamoci un gelato, anche se in queste giornate, almeno al nord, a Milano, un profede quasi autunnali, sembra quasi di parlare d'altro. Le gelaterie non sono certo affollate, però il gelato può essere, si spiega il Messaggero, può essere scelto al posto di un pasto senza problemi, perché ha tutto: latte, uova, zucchero, caffè, è un alimento ricco di proteine, glucidi, grassi, sali minerali e tante altre cose. Quindi buon gelato a tutti, l'appuntamento è per domani.